Europa 24. Ancora buongiorno da Gigi Donelli. L'Europa qualche problema ce l'ha anche con l'agenda. Infatti nel corso delle ultime due ore abbiamo annunciato la cancellazione del vertice dell'8 ottobre sul lavoro, poi è stato ripristinato. Sappiate, o meglio ricordate con noi, che questo vertice già per due volte è stato cancellato. A questo punto la comunicazione ufficiale parla di vertice sul lavoro l'8 ottobre. Naturalmente vi terremo aggiornati. Intanto a Strasburgo, prima plenaria di stagione, dunque di riapertura, stavo per dire delle scuole, ma anche delle scuole, ma solo dei lavori parlamentari. Sentiamo il punto sui lavori da Beda Romano. Inizieranno il 29 settembre le audizioni parlamentari ai commissari designati della prossima Commissione europea, presieduta dall'ex primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker. Nei prossimi giorni ai 27 commissari verranno inviate domande scritte a cui dovranno rispondere sempre per iscritto. Le audizioni dureranno tre ore. I deputati si concentreranno sulle competenze pratiche e sui livelli di moralità delle persone. Il Parlamento europeo poi voterà la fiducia all'intera Commissione il 22 ottobre qui a Strasburgo. L'obiettivo è di consentire al nuovo esecutivo di entrare in funzione il 1 novembre. La Commissione europea gode di una comoda maggioranza socialdemocratica popolare che intende sostenere l'esecutivo di Juncker. Nelle file dei deputati non mancano però coloro che vogliono comunque far sentire la voce del Parlamento europeo e sono pronti a bocciare alcuni candidati. In prima fila la signora Alenka Bratušek, ex primo ministro sloveno, che per la posizione a Bruxelles si è autocandidata. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. E ora parliamo di bonus di top management, in particolare di top manager delle banche. È giusto mettere un tetto a questi bonus? Sentiamo. Un tetto ai bonus dei banchieri, o comunque una normativa più stringente in materia, l'Europa l'aveva messa a punto oltre un anno fa. Alla vigilia dell'insediamento della commissione guidata da Juncker, i socialdemocratici hanno avvertito il nuovo presidente: non accetteremo passi indietro. Il tutto nasce da un allarme lanciato dal commissario al mercato interno uscente Barnier, il quale ha denunciato tentativi degli istituti di credito di aggirare le norme. Alcuni tra i gruppi di centrodestra ritengono che l'Unione non debba mettere bocca sui compensi, tra i più determinati gli inglesi, considerato anche il peso del settore in patria. È una china pericolosa, afferma Stephen Wolf, parlamentare di Europa per la libertà e la democrazia, e sbagliata. La crisi non è stata colpa dei banchieri, ma dei governi, che hanno adottato politiche monetarie deboli e hanno speso troppo. Queste parole ignorano quanto accaduto durante la crisi, risponde la socialdemocratica francese Béret. Questa crisi è partita dal debito privato ed è stata incoraggiata da comportamenti speculativi. Colui che si troverà ad affrontare la questione si chiama Jonathan Hill, conservatore, inglese, prossimo commissario per i servizi finanziari. In Parlamento lo aspettano il 1 ottobre. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude oggi a Milano la riunione informale dei ministri dei trasporti europei. Al centro della discussione le reti transeuropee. Al microfono di Sergio Nava, il commissario uscente ai trasporti Siim Kallas, spiega quali sono gli obiettivi del vertice. La legislazione sulle reti transeuropee è stata adottata alla fine dell'anno scorso. Abbiamo 26 miliardi di euro in finanziamenti disponibili. La struttura è lì e il concetto dei corridoi infrastrutturali c'è. Ora occorre implementare il tutto e passare all'azione. Mi aspetto da questi due giorni di discussione a Milano un piano concreto su cosa fare ora. Un tema sempre molto sensibile in Italia è quello della TAV, la cui costruzione al di qua delle Alpi è stata molto contestata. Siete preoccupati a Bruxelles per la prosecuzione dell'opera? Per quanto di mia conoscenza, i problemi fra la Francia e l'Italia sono stati appianati. Ora il problema è portare a compimento il progetto. Mi aspetto che l'amministrazione italiana si impegni seriamente nella realizzazione del progetto. Darete il via libera all'operazione Etihad all'Italia? Lei tocca un tema sensibile che condividiamo con i nostri colleghi della concorrenza. È troppo presto per darle una risposta. Stiamo ancora valutando il dossier. Non posso dirle nulla oggi. Quando darete la risposta? Non lo so, ma non dovrebbe mancare molto. Avete annunciato pochi giorni fa fondi pari a 11,9 miliardi di euro per migliorare i trasporti in Europa, concentrandoli in particolare sulle grandi reti infrastrutturali. L'Italia come ne è coinvolta e quanta parte di fondi potrà ricevere? Ora tutto dipende dai progetti concreti e dalla qualità di questi progetti. Valuteremo sulla base della lista dei progetti prioritari e vedremo quali sono i progetti di maggior successo. Ecco, questo è tutto. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.